una fila nel cielo, ma è difficile volare. E per questo non ci sto a vivere così. Morirò di libertà. Siamo tutti unici come me, come te. C'è un recinto intorno a noi che non ci fa muovere. Qui non servono favori, ma fratelli un po' più buoni. Senza farti circondare.